seguo nuvole, né vele in libertà, e non cerco le risposte nell'universo. Non mi pongo mai domande sul dove e l'aldilà, ma del resto non lo sa nessuno. Sembra facile, lo so.